Kiss Kiss Network. Do you remember 21st night September? Love was cheating the minds tonight while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. Hey, hey, hey, Wind and Fire, Earth, Wind and Fire l'originale è September, viene dal 1978, ma questa versione che sentiamo adesso è sempre loro, ma remixati dal production team Fats and Small, due ragazzi da Brighton UK che fanno il DJ remixato, e siccome l'avevano fatto nel settembre del 99 hanno intitolato la loro versione September 99. Piccola pubblicità per noi on Remake e torniamo con un grande grande pezzo da Lenny Kravitz. Spot Time. Volete sapere come si fa a telefonare a tutti, a tutte le ore, tutti i giorni, a sole 185 lire al minuto più IVA? Ve lo diciamo dopo la pubblicità. Non cambiate stazione. Kiss, kiss. Terra. Acqua. Fuoco. Aria. Biopur di Biotherm. Biopur è l'elemento giusto per un fascino essenziale. Con due prodotti avrai in regalo il monile onda pura del tuo spirito d'appartenenza astrale. Biopur è equilibrio naturale per la pelle mista e grassa. Con il concentrato d'argilla bianca, la tua pelle diventa pura e matte. Extra matte. Vivi la purezza. Vivi Biopur. Da Biotherm in profumeria. Automiric. Kiss, kiss. Sei insopportabile. Invece di pensare al mio regalo, rimani lì a mangiare cornetto Algida. Ma questi li ho appena presi al bar. È il nuovo cornetto caramel Algida. E allora, invece di divorarne a decine, prova a pensare al mio regalo. Non c'è bisogno. Lo sai che basta spedire il coperchio della confezione di cornetto caramel per vincere un fine settimana per due a Londra o Amsterdam. Davvero? Dammene una allora. Ma se vinci la Vespa 125 Piaggio, quella la prendo io. Concorso Win a Dream. Invia il coperchio e vinci fantastici premi con cornetto caramel Algida. Chiedi il regolamento nel tuo bar. Outmin Rick. Kiss, kiss. Voli estratti sulle ruote, pardon, sulle rotte British Airways. Roma Catania o Palermo, 85.000 lire a tratta. Roma Milano Linate, 115.000 a tratta. Roma Atene, 285.000 andate e ritorno. Roma Nizza, 440.000 andate e ritorno. Avete ascoltato i numeri vincenti delle tariffe British Airways valide nel mese di giugno. Ora chiamate l'848-81-2266. Voli operati da BWA per conto di NJI, tariffe soggette a restrizioni, tasse escluse. Distraetevi con British Airways. Kiss, kiss. Signorina, vedo che lei è alla guida della nuova Nissan Micra. Cosa ne pensa? Ah, guardi, sono soddisfattissima. È comoda, confortevole, si guida con un dito. E poi affidabile, non consuma niente. E in più, fino al 15 luglio, il climatizzatore è incluso nel prezzo per chi non ha un'auto da rottamare. E se invece vuoi rottamare la tua vecchia auto, il prezzo è irresistibile. Tra 16 milioni e 2. E poi... Ho capito, basta. Uff, chiedi a chi una Micra ce l'ha già. Secondo me è come uno si pone davanti alla televisione. Ad esempio sulla 7 ci sono delle sceneggiate molto belle, molto divertenti, che possono essere anche molto, se vogliamo, superficiali, ma sono divertenti. Signora, lei lo sa che la 7 non è ancora iniziata, vero? No. Non lo sa? No, non lo so. Lo sa? Sì, lo so. Ah. No, non... No, che... Okay. Proprio quello di cui si sentiva il bisogno. Un'altra TV. Dal 24 giugno, la 7. Difficile spegnerla. Schia. Rieccoci qui, con Blue Evolution potete chiamare tutti a 185 lire al minuto più IVA, tutti i giorni, a tutte le ore. Bastano 50.000 lire di spesa mensile e per il mese successivo passate a Blue Evolution. Potete attivare l'opzione sulla vostra ricaricabile blu con sole 10.000 lire. Per ogni chiamata vengono addebitate 250 lire alla risposta più IVA. Chiamate il 198. Musica del passato rivisitato in chiave moderna. Grande chitarra che segna un proprio pezzo classico del rock and roll, classico sì, anche se è stato scritto solo 8 anni fa, di Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way è il titolo sia del brano che l'album che ha fatto, forse il suo più bel album che ha fatto Lenny Kravitz. Allora poi abbiamo ascoltato Tom Jones, che è colpevole di un sacco di cover. Comunque bello questo, Are You Gonna Go My Way, dell'album Reload, dove lui ha chiesto l'aiuto di Robbie Williams, quell'altra voce che avete sentito. Bello, bello, un remake questo domenica pomeriggio. Ok ragazzi, siete pronti a ballare? Vi presentiamo Kool & the Gang with Get Down On It. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me, oh, what you gonna do?

But Honey from Moby, bellissimo, questo è un dance mix fatto da Rollo e Sister Bliss, cioè quelli di Faithless, e Rollo, come sapete, è la sorella, il fratello anzi di Daido. Bello questo remix, però prima abbiamo ascoltato una versione nuova che è uscito con Kellis from the album Play, no anzi non era dall'album Play, però prima l'originale dall'album Play, Moby with Honey, e Moby dice che ha ben 100 brani pronto per il prossimo album. Comunque la cosa è che se fa tre versioni di ogni canzone, immagino che avrò un sacco di musica pronto. Allora ragazzi, è il tempo di fare un piccolo salto attraverso l'acqua. Da Napoli andiamo a Cagliari e ci troviamo sulle spiagge del Poeto. Colleghiamoci con Raul, dove c'è il campionato mondiale del beach volley, la tappa italiana del tappo femminile. Allora Raul, linea a te. Guarda, io cercherei di fare la voce di Raul, però per adesso ancora non mi riesce, Fergal. Hi, Viviana. No, Raul, sto cercando di recuperarlo da qualche parte, perché fra atlete di beach volley e in questo momento concorrenti del concorso di Miss Italia, insomma è un po' difficile tenerlo qui con me, ma lo vedo. Sì, Viviana, eccomi, non so se riesci a vedermi, qui c'è un vento straordinario, nel senso che insomma si sta benissimo, c'è un bellissimo sole, mi trovo tra gli spalti da bravo cronista d'assalto per testimoniare l'atmosfera straordinaria che si respira in occasione delle semifinali di questo grande concorso World Tour Italy Open Maxicono Cup 2001 femminile. E dunque Viviana, io vorrei dire che è appena finita da pochissimo il terzo e quarto posto, erano in due squadre, si sfidavano Brasile contro Brasile, e al terzo posto, quindi medaglia di bronzo di questo campionato 2001, sono arrivate Sheldon e Adriana, che l'anno scorso comunque si sono classificate in ottime posizioni, e quindi anche fra pochissimo potremo vedere, magari raccontarvi in un prossimo collegamento, la finale per appunto il primo e il secondo posto fra due squadre molto importanti, esatto, le statunitensi e le australiane, che noi oramai abbiamo imparato a conoscere anche personalmente. Certo, anche perché sono state ospiti del nostro programma appunto Super Burp, che è andato in onda per tutta la settimana, e appunto abbiamo seguito questa straordinaria manifestazione. Fergal, allora noi ci risentiremo sempre in diretta qui da Cagliari alle ore 18, sperando insomma che possa concludersi questo primo e secondo posto appunto delle australiane e degli Stati Uniti d'America, va bene? Va benissimo, Raul, salutami quei concorrenti del Miss Italia, mi raccomando. Infatti c'è un concorso adesso in atto, c'è una selezione appunto proprio del concorso Miss Italia. Ok Viviana, allora io ritorno da te, va bene? Vabbè, se proprio devi ritornare, torna da me. Ciao Fergal. Ciao Viviana, e questo è le chiamate lavoro, ragazzi, buon divertimento. Ok, going on remake, ascoltiamo la bella musica del passato remixato o rimesso in un bel modo moderno. Saluto Gabriella do Bergamo, che voleva sentire Maniac di Lollipop, visto che in verità è di Sam Bello e domani parte per Londra. Purtroppo non ti posso accontentare oggi, però farò un po' di ricerca. Però per augurarti un buon viaggio, Gabriella, ti faccio sentire dagli anni 80 Milli Vanilli with Girl You Know It's True, 1989. You know it's true.

Club, Club, Club, Tropicana, bellissimo, questa versione latina, The Gypsy Kids, e questo immagino sarà un grande hit quest'estate, e prima di quello abbiamo ascoltato l'originale del 1983, i Wham con George Michael, uno dei loro primi pezzi, Club Tropicana, bella proprio. Allora adesso sono le 17, ascoltami le notizie. Alle 17 torna l'appuntamento con l'informazione. La Roma può festeggiare, lo scudetto è suo. Poi le notizie di politica interna, il ferimento di un bimbo nomade in Piemonte, il voto in Bulgaria. E per chiudere arrivano 2 settimane di fuoco per i contribuenti. Buon pomeriggio da Pina Esposito. Dunque, apertura dedicata allo sport con la Roma che con 75 punti ha conquistato il terzo scudetto della sua storia, superando 3-1 il Parma. Anche se l'incontro non è ancora terminato perché è stato sospeso per un'invasione di campo al 40esimo. E si gioca ancora anche a Torino, dove al 20esimo il pubblico è entrato in campo, ma pochi minuti fa lo ha fatto di nuovo, quindi doppia interruzione. Al momento la Juve conduce per 2-1 sull'Atalanta. La Lazio invece è stata superata 2-1 dal Lecce, che quindi rimane in Serie A. Ma per un tricolore assegnato ci sono anche 3 squadre che retrocedono e raggiungono il Bari in Serie B, e sono al momento Vicenza e Napoli. Reggina e Verona invece vanno allo spareggio, salvo, come dicevamo, il Lecce. Vediamo i risultati, in particolare Brescia-Bari 3-1, Fiorentina-Napoli 1-2, Inter-Bologna 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Lecce-Lazio 2-1, Reggina-Milan 2-1, Roma-Parma 3-1, Udinese-Vicenza 2-3, una partita questa di cui si discuterà molto, Verona-Perugia 2-1. E c'è anche il motomondiale che si tinge d'azzurro. Valentino Rossi ha vinto il Gran Premio di Catalogna nella classe 500 davanti a Max Biaggi e Loris Capirossi, stessa sequenza per la classifica generale. Vittoria azzurra nella 125 con Lucio Cecchinello davanti a Tony Elias e Manuel Poggiali, che guida la classifica generale. Nella 250 primo Cato, seguito da Arada, terzo l'italiano Rolfo. E chiusa questa pagina sportiva, restano le altre notizie. Anzitutto il raduno della Lega, Devolution immediatamente, ha detto Umberto Bossi nel suo discorso a Pontida. Davanti al popolo padano, nella sua qualità di neoministro, ha aggiunto: se vogliamo le riforme dobbiamo farcele, perché nessuno le farebbe al posto nostro. Un bimbo di 8 anni è stato ferito alla testa in una sparatoria avvenuta la scorsa notte nel campo nomadi di Villa Falletto, provincia di Cuneo. Il piccolo, che era con altre persone, stava dormendo nella sua roulotte quando un gruppo di sconosciuti è entrati nel campo e ha cominciato a sparare. Nessun testimone ha assistito alla sparatoria. Dopo 55 anni di esilio, l'ex re torna in patria per salvare il paese dalla miseria. I cittadini gli danno fiducia. E quanto potrebbe accadere oggi in Bulgaria, dove si vota per il rinnovo dell'Assemblea nazionale. I sondaggi danno in vantaggio il movimento di Simeone II con oltre il 30%. Il partito è nato solo 2 mesi fa, dopo il ritorno in patria dall'esilio spagnolo. E per chiudere, le imposte. In arrivo 2 settimane di fuoco per i contribuenti italiani. Si parte con le imposte sui redditi. Il termine da tenere a mente è il 20 giugno per chi ha presentato unico 2000 e vuole pagare il saldo del 2000 senza maggiorazioni. Sempre entro il 20 chi ha la partita IVA deve presentare la dichiarazione gennaio-marzo. Entro il 2 luglio infine bisogna pagare il primo acconto ICI. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 18. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Since in you.